Allora, intanto buonasera, è abbastanza emozionante fare l'iniziativa in Calusca. No, dicevo che è sempre molto emozionante venire qui a discutere di filosofia, non solo, di politica. Se ne torna sempre meglio di come ci si è entrati. Allora, questo, l'esperienza che è così, insomma, per tratti ampi cercherò di riassumere, è questo collettivo redazionale che fa una rivista che si chiama Altra Parola. Altra Parola, che ha un sito e anche la presunzione di fare una copia cartacea. Ma ha proprio così, come i cantanti, è vero. No, dicevo, di proporre una rivista che abbia la capacità di leggere il proprio tempo. Mi rendo conto che tutte le riviste si pongono questo tipo di obiettivo. Però, ecco, a noi il tentativo è di riconfermarlo, di ridargli una veste, riconfigurarla questa possibilità. E quindi, perché l'ennesima rivista, appunto per questo motivo, si tratta di ripensare a quelle categorie con le quali fino ad oggi abbiamo intrapreso la nostra lettura del mondo. Cioè quel pensiero critico che per lungo tempo è stato capace di tenere in scacco la negatività, ora quel pensiero non ha più la medesima efficacia e forza. Questo mi sembra evidente, c'è come un pensiero che gira a vuoto. Non dico che la rivista non pratichi anche la stessa perversione, però questo è il punto fondamentale, cioè ricostruire categorie, le quali sono la premessa per la ricostruzione di legami sociali, di luoghi di socialità. Non è inutile che me ne venga a spiegare io queste cose. E un cenno sul numero di questo numero che presentiamo dedicato alla guerra. Anche qui ci siamo posti i problemi, se si trattava per l'ennesima volta di inseguire gli eventi, che è un po' una malattia, però la gravità è stata tale ed è tale che non ci si poteva esimere da questa scelta, cioè di mettere le mani nel proprio tempo e riplasmarlo se possibile, e restituire una chiave di comprensione che non abbia la pretesa di essere esaustiva, ma una chiave di comprensione capace di andare a fondo. Questo numero precede il prossimo, che sarà dedicato al lamento di Giobbe. Giobbe, insomma. Anche qui si può obiettare che continuiamo a dare potere a forze e forme negative, certo, però in quella contraddizione che Giobbe apre nella vita di Dio, ecco, lì ci fosse, si aprisse una possibilità, un po' come l'aveva individuata Bloch da questo punto di vista. Questo numero sulla guerra, ripeto, è l'esito di un confronto, di una riflessione che ci ha accompagnato, devo dire. Questo è stato un numero effettivamente pensato e condiviso. La guerra come struttura, come forma di governo della società. Questo mi sembra evidente. Cioè, la guerra arriva laddove altri potenti fattori di omologazione sono risultati fallimentari, ma Certamente questa è la chiave fondamentale. La guerra è forma di governo, non c'è dubbio. Poi possiamo discutere sulle modalità, ma questo mi sembra evidente. Poi, scusate, ma... Allora, dicevo, questo è il primo punto che abbiamo, che in qualche maniera viene toccato. Secondo, come la guerra ridefinisce i rapporti che i soggetti hanno tra loro e tra loro con se stessi e con l'universo. Cioè, la guerra diventa possibilità di plasmare e costruire singolarità a sé congruenti. Ma questo fatto è evidente sugli occhi agli occhi di, credo, di chi osservi le cose col disincanto necessario in questo caso. Quindi non è solo una forma di governo della società, ma è forma di governo degli individui, delle individualità, di quello che sono le fabbriche più, come dire, momenti più riposti nel nostro essere. La guerra interviene a questo livello, in questo livello apparentemente elementare. Io mi fermerei qui perché sarebbe più interessante magari se riuscissimo a farci delle domande, poi magari chi ha voglia può leggere il libro, la rivista, insomma. Però sarebbe interessante che si avviasse più una questione dialogica come dire, piuttosto che il detentore di una sola parola. Per cui poi se è il caso riprendo tranquillamente. E dunque, qualche parola su questo numero. Intanto la rivista, che forse conoscete almeno nelle edizioni online, è una rivista che si articola in due parti di solito, questo è un po' per tutti i numeri. C'è una parte tematica che appunto in questo numero qui è dedicata alla guerra. E poi c'è una parte di rubriche a tema libero dove c'è anche una forte componente letteraria. Noi abbiamo pubblicato diverse poesie, saggi critici di natura letteraria e filosofica. Quindi c'è un po' questo doppio registro, in tutti i numeri. In questo numero, mi sentite? In questo numero. Ci sono delle posizioni anche abbastanza diverse, perché in realtà. Noi riteniamo che in questo momento, entro un certo campo, si debba avere anche una pluralità di posizioni che si possano esprimere anche nello stesso luogo e venire a confronto l'una con l'altra. Per esempio, in questo numero abbiamo un articolo di Roberto Finelli, L'età delle catastrofi, un articolo di Franco Berardi, La guerra come automatismo di deglobalizzazione, che in qualche misura poi sono fieramente avversi l'un con l'altro, tanto che io ho assistito a un dibattito a Venezia in cui l'uno sosteneva che si dovesse parlare di catastrofe e l'altro sosteneva che si dovesse parlare di crollo, che era un dibattito un po', come dire, che sfiorava il surrealismo, ma insomma molto interessante. Ma per dire appunto che nell'ambito di un certo campo critico, la rivista è plurale, cioè è aperta a contributi di diversa matrice, di diversa provenienza, sempre però entro certi confini, ecco, entro certi confini ben precisi, naturalmente. E in questo numero c'è anche un saggio di Alessandro Simoncini che ha un orientamento piuttosto genealogico foucaultiano, diciamo così, sulla guerra giusta. Lui ricostruisce questo concetto di guerra giusta anche proprio dalle origini di questo concetto fino all'uso che ne viene fatto oggi politicamente, che ne è stato fatto recentemente, ma anche già nelle guerre, diciamo, dell'ultimo Novecento e dei primi decenni di questo secolo. Questo un po', diciamo, per dare un quadro generale. In realtà noi non abbiamo voluto fare un numero sulla guerra in Ucraina, tanto per essere chiari, non abbiamo voluto fare un numero che fosse legato strettamente alla cronaca e che prendesse posizione sulla cronaca in maniera immediata. Abbiamo piuttosto cercato, perché questo si fa già in tanti modi, in tanti luoghi, nei modi più impensati, abbiamo cercato di fare una riflessione sulle conseguenze della guerra sulla formazione dei soggetti e sul loro modo di costituirsi. Questo è un po'. Nell'editoriale si insiste soprattutto, partendo da un famoso saggio sull'Iliade di Simone Weil, o Simone Weil come si pronuncia. Abbiamo cercato di identificare proprio questa struttura quasi antropologica, in sostanza, che si sta affermando. Ad esempio, che cosa avviene ai soggetti in una situazione di guerra? Non soltanto ovviamente la distruzione e il pericolo fisico, questo è ovvio, ma la distruzione e il pericolo psichico, cioè il pericolo proprio di un annientamento della soggettività, di un annientamento del soggetto. Ci sono varie citazioni di Simone Weil, per esempio una è questa: nella guerra si perde ogni vita interiore, no? Quindi, diciamo, non è soltanto un male fisico, ma anche un male psichico, diciamo così. Sempre in questa citazione, l'anima che l'esistenza di un nemico ha costretto a distruggere in se stessa quel che gli aveva posto la natura, crede di poter guarire solo con la distruzione del nemico. Cioè, la pulsione di morte, no? Per citare Freud, che è citato spesso in questo numero, la pulsione di morte, che diventa pulsione di aggressione e di distruzione dell'altro, non è solo, diciamo così, una immediata negatività. Cioè io ho una pulsione di distruzione e cerco di ammazzarti. Ma soprattutto poi produce anche nella vittima un effetto mimetico di distruttività speculare, che lo annienta dal punto di vista proprio delle sue qualità umane. Cioè, a un certo punto, sostiene la Weil, c'è la violenza mimetica. Non la sostiene solo lei, sostengono anche altri, adesso non stiamo a fare troppe citazioni, ma insomma c'è un incremento mimetico della violenza. Per cui alla fine, che ho scritto questa cosa, poi alla fine citavo anche un film che si chiama La sottile linea rossa, per fare un esempio, in cui a un certo punto si perde la nozione di chi era l'aggressore e di chi era aggredito, perché oltre a un certo livello di incremento mimetico della violenza, la distinzione fra aggressore e aggredito si stempera, si dimentica in qualche maniera, perché tutti e due si comportano allo stesso modo, fondamentalmente. E questo è veramente un annientamento radicale della soggettività, cioè il fatto che anche chi inizia una guerra per difendersi, no, diciamo così, raramente poi riesca a contenere la sua reazione nei limiti iniziali, ma tende a sovraccaricare questa reazione fino a comportarsi in modo speculare a quello che ha aggredito. Questa è la tragedia più profonda, secondo Simone Weil, della guerra. Può citare anche un altro, se riesco a dividere le pagine lo cito, sì. Ecco, Intanto c'è un aspetto che è anche importante sottolineare, cioè che è difficile mantenersi nei limiti. Cioè fare la guerra in un modo limitato è quasi impossibile. La guerra tende come un meccanismo autoreferenziale all'illimitatezza. Cioè l'incremento della distruttività, inutile che uno dica, cioè inutile, non sarebbe inutile, si può dire all'inizio la mia violenza arriverà fino a questo punto, ma non andrà oltre questo punto, oppure io rispondo alla violenza che mi è fatta fino a questo punto, ma non oltre questo punto, però di fatto questo non succede quasi mai, cioè c'è una volontà di distruzione, una pulsione di distruzione che a un certo punto scardina i limiti coscienti che ci si era posti all'inizio. E questo porta alla rovina gli attori di questo scenario. Devono necessariamente perire, dice Weil, perché non considerano la propria forza come una quantità limitata, né i loro rapporti con altri come un equilibrio tra forze ineguali. Dato che gli altri uomini non impongono ai loro movimenti quel tempo d'arresto da cui soltanto possono procedere i nostri sguardi verso i nostri simili, essi finiscono per credere che il destino ha concesso loro ogni licenza. Da questo momento essi vanno al di là della forza di cui dispongono, essi vanno inevitabilmente al di là perché ignorano che essa è limitata. Cioè praticamente c'è questo smarrimento del senso del limite. Vabbè, lei lo esemplifica con questo esempio illustre dell'Iliade, no? Se avete presente appunto questi, cioè i famosi eroi travalicano continuamente questo limite nel furore, no? Il furore diventa a un certo punto tale che sì, è difficile arrestarlo. Quindi c'è questa impersonalità e questa astrazione che fanno parte della guerra come appunto un meccanismo autoreferenziale. Questo annientamento radicale. E poi c'è questo effetto mimetico che vi dicevo prima, in cui appunto è difficile, ecco, perché la potenza è un illimitato, cioè genera sempre un di più. Per quanto grande sia una potenza, ne è sempre possibile una più grande. Solo la saggezza divina limita la potenza, ma la saggezza divina di solito non viene praticata all'interno di un conflitto bellico. Ecco, questo è un po', diciamo, le cose su cui avevamo discusso, come avevamo discusso anche sulle origini, anche psicologiche, di uno stato di guerra. E probabilmente alla base anche della guerra c'è una fortissima forma di risentimento, nel senso in cui Nietzsche usava questa parola. Cioè quando diciamo si instaura a livello sociale collettivo uno stato di umiliazione e di perdita del sé e di smarrimento, tanto per fare un esempio paragonabile a quello che si è verificato appunto durante l'epidemia di Covid, tanto per intenderci, cioè, c'è uno stato di depressione collettiva e sociale, questo è un esempio, in altri contesti storici può essere altra la causa della depressione profonda, può essere una crisi economica per esempio, una crisi economica come è stato per la Seconda Guerra Mondiale, entro certi limiti, cioè può crearsi una forma di crisi in cui i soggetti si sentono talmente umilianti e sono talmente arrabbiati, senza che questa rabbia sia diretta in un modo consapevole contro le reali cause e i reali artefici di questa crisi, di questa disgregazione, ecco che questo è un humus favorevole allo scoppio di una guerra, perché è una canalizzazione delle energie distruttive contro generalmente un capro espiatorio. E quindi diciamo le vittime tendono a trasformarsi in carnefici. Questo è vero nel meccanismo stretto della guerra, dove appunto, come dicevamo prima, c'è questo mimetismo per cui la vittima tende a trasformarsi in carnefice senza riuscire a uscire da questo vincolo diabolico, ma allo stesso tempo questo può precedere lo stato di guerra, cioè c'è sentirsi vittima e uscirne. Se leggete le testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale di scrittori anche famosi, leggete La Montagna Magica di Thomas Mann, leggete Céline, leggete Musil, leggete questi scritti, vedrete sempre che c'è nella loro ricostruzione dei primi tempi della guerra, dell'entusiasmo che accompagna la guerra, no? C'è questa, come questa sensazione quasi esultante di uscire da uno stato di umiliazione profonda, no? di destrutturazione profonda di sé. E la guerra offre questo tipo di esaltazione all'inizio, naturalmente, cioè questa euforia iniziale, che poi, appunto, pensate all'inizio di Viaggio al termine della notte di Céline, per fare un altro esempio, in cui appunto lui vede questa sfilata di cavalieri con l'elmo scintillante via di seguito e si arruola di colpo per poi ritrovarsi dopo 2 mesi, diciamo così, disteso nel fango e tentando soltanto di disertare il più presto possibile. Quindi, diciamo, c'è questo stato di profonda umiliazione, questo stato di profondo fallimento che può essere economico, sociale, politico, di mancanza di orientamento, di mancanza di una prospettiva positiva per le soggettività. Quando c'è questo stato di vuoto nel tempo, ecco che si verifica uno stato di cose favorevole all'incanalamento irrazionale di queste energie distruttive nello stato di guerra. Io mi fermo qui e... Aspetta, ti passo il microfono, però. Beh, innanzitutto ringrazio per il fatto di essere venuti e di condividere questo percorso di ricerca e di elaborazione, anche questo sforzo di dare una nuova configurazione possibile allo sforzo critico. E quello che sarebbe stato ideale è una possibilità per il futuro, oggi solo parzialmente realizzata, per me sarebbe l'incrocio, l'imbricazione e la reciproca sollecitazione tra un lavoro come quello che voi avete fatto sulla guerra, quindi ricercare i fondamenti antropologici, addirittura una metafisica della guerra, quindi un approccio fortemente filosofico, con lo sforzo e l'attività di chi oggi sta sia sul piano pratico dell'iniziativa, per quel poco che si riesce a fare, sia sul piano della documentazione, dell'elaborazione dei dati socio-storici contemporanei rispetto alla guerra e al corso verso la guerra che è in atto, come, parlando di questa situazione, il centro di documentazione contro le guerre, che è attivo da diversi anni e negli ultimi 2 anni ha speso diverse energie, ha proposto diversi piani di lettura della guerra in Ucraina, con un lavoro, a mio avviso, indispensabile, ma solo parzialmente realizzato e ancora in corso, di recupero, riscoperta e valorizzazione di chi ha ragionato e si è opposto alle grandi guerre del Novecento. Quindi tutto quello che ha alimentato e sostanziato la posizione dei proletari, della gente comune rispetto alla prima guerra mondiale, dopo il primo momento di entusiasmo, che fece sì che quella guerra, che è la prima guerra contemporanea totale, finì per il venir meno della volontà delle popolazioni e dei combattenti a continuare nel macello. E in posizione molto più difficile, minoritaria, di scarso peso politico, allora tutte quelle correnti che si opposero alla Seconda Guerra Mondiale. Proprio l'altro ieri è arrivato qui il lavoro, questi due volumoni fatti da un gruppo di compagni che hanno raccolto tutte le varie posizioni di anarchici, internazionalisti, consigliaristi, oppositori di vario genere alla Seconda Guerra Mondiale, e poi tutto il corso della resistenza alla guerra, dall'Algeria al Vietnam, insomma, questo passato storico che ha costituito il punto di vista dei proletari, della gente comune e delle minoranze rivoluzionarie rispetto a questi grandi eventi che hanno segnato, insomma, in una maniera che sappiamo, il corso del Novecento, e che vanno ad annunciare un futuro estremamente preoccupante. Ecco, dico solo parzialmente riuscito, perché c'è un altro di questi approcci, e cioè la ricerca, la documentazione su come funziona materialmente la guerra, quindi tutta la logistica militare, che è un campo di applicazione di Carlo. Ecco, se insieme a Carlo oggi fossero stati presenti i compagni della documentazione, quelli che hanno fatto questo, si sarebbe realizzato per me una delle condizioni per andare avanti e pensare ancora più profondamente, perché un qualsiasi approfondimento positivo necessita, a mio avviso, di questi vari apporti filosofici, storico-politici, contemporanei e logistici, perché appunto la guerra si fa con le armi, queste armi devono viaggiare, devono integrarsi nel sistema di comunicazione, quindi non soltanto nella logistica materiale, ma in tutta la sfera informatica, che sappiamo sta alla base di una delle configurazioni attuali della guerra. Ecco, l'aspirazione, l'obiettivo per noi è di realizzare, o comunque tendere a questa integrazione. Poi che si realizzi concretamente in un giorno oppure, però questa è l'ispirazione da parte nostra, da parte della Calusca. Dico solo due robe molto veloci rispetto ad alcuni temi che sono stati accennati prima. Il primo è la questione del limite, dell'abolizione del limite. Questo carattere della guerra contemporanea, la prima grande guerra dei materiali e la dinamica dello svolgimento e della conclusione o mancata conclusione di queste grandi guerre, che differenzia le guerre contemporanee dalle guerre del passato, ha, a mio avviso, molto a che fare con il carattere illimitato della dinamica del capitale. Cioè, c'è una omologia, a mio avviso, molto forte tra l'abolizione del limite nella guerra e l'abolizione di ogni tipo di limite nel funzionamento dell'economia capitalista. Questa è la prima cosa che mi è venuto di pensare sentendovi parlare. La seconda è che questo stesso processo può essere letto, a mio avviso, in maniera forte dentro la categoria che Kamat pone dell'autonomizzazione. Cioè la guerra, come altri eventi e processi della storia contemporanea, ha una dinamica di sostanziale crescita esponenziale, a un certo punto di autonomizzazione rispetto, innanzitutto rispetto agli attori umani che la conducono. Ecco, nel film che hai citato, La sottile linea rossa, oltre all'indistinzione cui accennavi tu, risalta secondo me un'altra cosa molto forte, e cioè il fatto che le popolazioni dove si svolgono i combattimenti sono altro e vengono investiti in questa maniera così catastrofica da qualche cosa che non c'entra nulla con la loro vita. È proprio un processo che, di cui loro sono semplicemente la carne e la natura, completamente appropriate, usurpate da una dimensione totalmente altra da quella che è la loro vita e il loro modo di riprodurre la loro socialità e in particolar modo il rapporto con la natura, perché il soldato rimane a un certo punto colpito proprio da questo, no? Da questa natura che è una possibilità altra rispetto all'atrocità del combattimento. Io me lo ricordo così quel film. L'ultima cosa, e poi mi taccio, l'approccio psicologico, psicoanalitico, la derivazione che si può trarre dai lavori di Freud. L'approccio è fondamentale, non so quanto davvero si possa tirare fuori da Freud su questo terreno, perché le cose che lui scrisse, per quello che penso, per quel poco che so, sul grande evento bellico a cui assistette, sono non certo la parte più forte del suo pensiero. Secondo me Freud e quel tipo di approccio non riuscì a cogliere la dinamica particolare di quel conflitto. E in generale, seppure esistono certo dei nessi tra l'aggressività individuale e la guerra, però questi nessi vengono definiti dal quadro complessivo in cui si combatte, ci si ammazza. Ad esempio, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale non ci fu nulla di minimamente paragonabile all'entusiasmo che almeno una parte della popolazione sentì, quindi sulla base dei meccanismi da te ben detti, rispetto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Addirittura sia in Italia che in Germania c'era grossa preoccupazione. L'annuncio della guerra in Italia viene seguito dal silenzio, no? Un'assemblea, una donata oceanica, ma che non dice niente. È lo sgomento, l'emozione prevalente, diversamente invece dai tanti giovani che andavano con le loro belle divise ancora colorate, che poi nel giro di pochi mesi sarebbero stati costretti a sostituire con divise mimetiche. Ecco, niente di questo avvenne nella Seconda Guerra Mondiale. L'orrore andava di pari piuttosto con l'impotenza, con un senso di impotenza che però era il diretto portato della situazione politica del tempo. Cioè gli stati erano riusciti a operare una presa totalitaria sulla dinamica sociale, che invece nella prima guerra mondiale di fatto non erano riusciti ad avere. Ecco un po', ecco, la ricaduta anche individuale, esperienza e psicologica, eccetera, a mio avviso deve essere letta dentro quel quadro di forze che si intersecano, che sono innanzitutto forze, a mio avviso, storico-politiche. Cioè, nella prima guerra mondiale, nonostante l'affermarsi della dinamica statale, riuscì a costituirsi uno spazio di ripensamento, e che poi questo ripensamento divenne rifiuto sia all'interno che poi sul fronte. Nella seconda guerra mondiale questo di fatto non avvenne, e questo appunto per motivi storico-politici che chi visse quegli eventi e cercò di documentarli e di ragionarci sopra può oggi ancora dirci, se riusciamo a recuperare questa memoria passata. Ecco, volevo dire solo queste cose. Rispondo brevemente, non so come volete, preferirei, se c'è qualcuno che vuole solo molto brevemente, poi appunto spero che ci sia il tempo. Per quanto riguarda Freud sono d'accordo con te, cioè è un'analisi che va integrata assolutamente con gli aspetti storico-politici. Lui, per la verità, più che negli scritti sulla guerra, lo fa questa riflessione in al di là del principio del piacere, dove è un scritto del 21, mi pare, o 22, dove sarebbe incomprensibile quello scritto se non fosse riferito alla guerra. Sì, è vero, nella Seconda Guerra Mondiale non c'è il momento dell'entusiasmo, però era preceduto, questo sì, da un momento di umiliazione psichica collettiva, famose riflessioni sul Trattato di Versailles. Insomma, il Trattato di Versailles è una premessa, una delle premesse della Seconda Guerra Mondiale, perché in effetti fu portato all'esasperazione la situazione economica. E quello che dici sul capitalismo è assolutamente vero. Tra l'altro c'è un articolo, proprio quello di Finelli, che ne parla, in cui appunto questa tendenza all'illimitato è una caratteristica del capitalismo contemporaneo, del Novecento. Quindi questo è chiaro, che diciamo che il ricorso alla guerra permette di rifunzionalizzare anche economicamente questo aspetto, cioè quando non funzionano più i canali normali, cioè, è un complesso di cose che sono allo stesso tempo psicologiche, economiche e politiche, no? Quindi uno stato di risentimento e di umiliazione profonda, uno stato che può derivare appunto da una crisi economica, perché nella Seconda Guerra Mondiale gioca moltissimo anche la crisi del 29, poi la crisi dell'inflazione, eccetera, eccetera, in cui è la soggettività della media borghesia che perde forza, cioè questi si trovano in un mondo in cui sono completamente esautorati dal loro status simbolico, sociale, economico. E tra le altre cose, prima l'adesione ai fascismi e poi alla guerra, anche se non entusiastica, è motivata proprio da questa perdita profonda di identità. E vabbè, no, adesso veramente se... facciamo girare. Attualizzare molto il discorso, un imprenditore di se stesso fallito oggi cova dentro di sé una rabbia spaventosa, secondo me, ecco, questo è il concetto, è una voglia di aggressione sconfinata. così. Al di là della guerra, anche a Mario, io seguo la rivista, come sai sono iscritto, eccetera. Volevo fare una domanda al di là di questo testo sulla rivista stessa che seguo da un po' di tempo. Se la rivista poi nel ridefinire quel pensiero critico di cui parlavi tu, Massimo, l'elemento del limite non sia l'elemento centrale, ma del limite non in senso lacaniano, cioè mi sembra che la rivista, che concordo con te, a volte si leggono cose contrapposte, ma contrapposte non su un argomento, ma come dire, le cui matrici sono culturalmente e filosoficamente diverse, non abbia come elemento centrale la distruzione del limite come posizionamento del soggetto, cioè l'impossibilità oggi del soggetto di un posizionamento possibile, quindi la distruzione stessa del pensare dal limite, per usare un termine, ecco, se non sia questa la, che seguo da più di un anno, diciamo, la tematica centrale, ancor di più in una situazione di guerra. Se dopo mi rispondete a questa domanda per la comprensione stessa della rivista. Volevo prima una ripresa di un tema che Roberto ha avanzato, questo rapporto tra la dimensione culturale e spirituale, lo dico, e il riferimento ad esempio alla questione logistica. Effettivamente questo è un elemento che è mancato. Ora è vero che non si può passare in rassegna tutto, ma lì c'è qualcosa probabilmente di molto importante da salvaguardare e da valorizzare. E io penso, non so, anche a certi lavori di Carlo Tombola, ad esempio. Ecco. Forse una proiezione personale. Manca qualcosa nelle nostre analisi. Qualcosa che, ecco, che un lavoro come quello di Carlo, ce ne sono credo molti a farlo, un lavoro di quel tipo, possano aiutarci a disvelare, a portare ad evidenza. C'è molta radicalità, ma una radicalità che non è semplicemente delegata a qualcuno da un gruppo che fa una rivista. Semmai il gruppo si deve mettere in coda rispetto a quello che sta accadendo e mantenere certo l'occhio vigile. Ecco, a me sembra che questa sollecitazione a tener conto di esperienze sia qualcosa che sia mancato fino a questo momento, ecco. Per cui da lì probabilmente bisogna ripartire, avendone la forza, questo chiaramente, ma almeno la convinzione. Ecco, questo mi sembra che ci siano interventi da tener conto proprio nella prospettiva di ricostruzione, di configurazione, rispetto alla quale probabilmente sentiamo tutti un po' quel disagio a cui non si dà nome, ma che c'è. Ecco. Poi sì, tu hai ragione, cioè diciamo quello che diceva anche lui prima, cioè l'area comune della rivista è il capitalismo come incremento illimitato in ogni campo e come necessità di riflettere su invece il modo di limitarlo, diciamo così, se mai fosse possibile. Questo è proprio il cuore, sì. Sì, mi chiamate in causa. Intanto grazie per avermi chiamato in causa e non vi vorrei illudere sul fatto che ci sia tanta gente che si occupi di logistica e in particolare di logistica della guerra. Siamo veramente pochi sulla faccia del pianeta. Non solo, ma come sapete non da me ma da Sergio Bologna, eccetera, tutti quelli che hanno cominciato a usare questo strumento, è uno strumento molto potente che disvela bene la cucina del capitalismo, i meccanismi e la sua finitudine, se vogliamo proprio tornare al tema del limite. Cioè il fatto che c'è una preponderanza dell'aspetto materiale nel capitale. Vi ricordate quando si parlava di capitale immateriale, di come dire, assottigliamento della materialità del capitale, eccetera. In realtà, proprio nel caso della guerra, noi vediamo che si prepara con lungo anticipo, si mette in pratica con metodi industriali, non sono novità queste cose, arrivano appunto dalla Prima Guerra Mondiale, quindi c'è una grande pratica, ma adesso la commistione, come dire, tra economie civili e militari è quasi impossibile. Non c'è separazione, insomma, tra le due facce della stessa economia. Tanto che diventa un po' così lapalissiano dire che il capitale finisce sempre per fare delle grandi guerre. Ma qua siamo in una situazione storica in cui c'è una possibilità che fino almeno agli anni 50-60 del secolo scorso non c'era, cioè quella che ci sia poi in questo continuare a estendere, no, a passare i limiti, che si arrivi alla guerra nucleare. E questo è un aspetto veramente diverso. C'è una logistica del nucleare che è molto ben separata però dalle altre logistiche, non è trattata dagli stessi operatori, non ha le stesse geografie, non ha la stessa tecnica ed è militarizzata ovviamente fin da tutta la catena logistica del nucleare è militarizzata. Avete visto anche il caso del Niger, eccomi. Flavio diceva ma non si parla mai delle guerre in Africa, ma perché le guerre in Africa in qualche modo sono considerate guerre coloniali sempre, no? sono sempre qualcosa che serve a incrementare la forza di una guerra altrove. Ecco, io credo che la logistica, che quella che mi serve per fare questo tipo di analisi, serve appunto per stabilire che la cucina della guerra, che la fabbrica della guerra è quella. Molte menzogne sono cadute subito, no? Per esempio la partecipazione dei diversi paesi europei alla guerra, ma è stata immediata e totale subito, no? Il fatto che gli aerei dell'aeronautica militare italiana portassero le armi in Polonia, che poi finivano, ha messo in moto tutto un meccanismo per cui oggi bisogna trovare le fabbriche che producono ciò che è stato mandato in Polonia e poi quindi in Ucraina per ricostituire gli stock italiani. E quindi ecco che il ciclo si è messo in moto ed è un ciclo lungo, grosso, potente, che andrà avanti decenni, non è una questione di pochi giorni o di pochi anni, perché si è messa in moto una macchina estremamente grossa, grande, vigorosa. Quanto poi questo abbia a che fare, hai detto della rabbia di chi è, no, dell'operatore economico fallito, di quanta rabbia c'è socialmente parlando. Però io penso che la somma di queste rabbie non porti comunque a un conflitto armato, neanche del genere ucraino o altri paragonabili. Io penso che qui è lo Stato e il governo dentro gli Stati che rappresenti veramente il meccanismo della guerra. È stato praticato costantemente lungo il Novecento. La guerra è uno strumento di politica usato e abusato. E avete anche notato come gli Stati Uniti, che hanno, diciamo, si sono assunti un po' il compito imperiale in questo meccanismo, non ne abbiano più vinte le guerre dal 1945 ad oggi. Corea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Somalia, tutti disastri militarmente parlando, ma invece alla disposizione degli alleati ogni volta era veramente già il risultato politico e industriale, direi perfino, sicuramente economico, e già l'effetto insomma raggiunto, già vittorioso in questo campo. Quindi bisognerebbe cominciare a separare le guerre che sono in corso in questo momento, guerre che sono in corso in casa nostra, guerre che sono in corso a livello europeo, quindi si era arrivati a pensare a una unità politica, oggi è assolutamente impensabile unità politica, anzi è disunità politica per definizione. Si è pensate ancora che cosa c'è da pensare e sapere della Cina da questo punto di vista, cioè quanta potenzialità di guerra rappresenti lo sviluppo economico cinese e quanta aggressività questo, al di là delle ciance che dicono i pensatori, no, della guerra americana, ma proprio è oggettivo il fatto che tutte le grandi potenze continuino a praticare la guerra come metodo di imposizione, diciamo, del proprio ordine su altrui ordini. Ecco, non so se tutto questo può essere utilizzato nel discorso che stiamo facendo, abbassa un po' il livello culturale, certo, il livello della riflessione astratta sulla guerra, però la guerra è veramente qualcosa di bestialmente fisico, di bestialmente umano, e riporta tutti indietro sempre a quel punto. Ecco, questa è la cosa che mi sembra che abbiate già accennato, ma che vada ripetuta. No, io volevo solo aggiungere, ma è un'aggiunta a quello che stiamo dicendo, che mi sembra tutto molto interessante, cioè il particolare tipo di deformazione informativa che è associata alle guerre in corso, cioè c'è una quasi impossibilità di distinguere il vero dal falso. Cioè, non so, è sempre stato un po' così, perché la propaganda bellica è sempre stata basata sull'indistinzione del vero dal falso, ma in questo momento... sì, ora siamo arrivati a un livello francamente proprio molto molto quasi radicalissimo, diciamo così. Cioè io personalmente, ma penso che tutti noi facciamo molta fatica a distinguere, perché le forme di manipolazione elettronica, le forme di manipolazione informativa sono talmente raffinate. Io ho parlato appunto con un personale che conosco che si occupa di computer, come si può costruire graficamente un evento, per esempio, no? E la difficoltà di distinguere se quell'evento si è realmente verificato e si è realmente verificato in quel modo è difficilissimo. Si può fare, cioè ci sono degli strumenti di controllo, ma sono complicatissimi. E tra l'altro sono nelle mani di poche persone, cioè dei gestori della comunicazione informatica. Non sono, i copyright non sono pubblici, e quindi è molto difficile per uno che non sia inserito in questo tipo di grandi corporation fare un controllo, proprio la possibilità di controllare se quel logaritmo è stato usato per esprimere qualcosa di vero o qualcosa di falso. Si potrebbe fare, ma non si può, perché non vengono resi pubblici. Tanto che questo signore diceva che, Michele Mezza, un giornalista, diceva una delle lotte che si dovrebbero fare è quella di chiedere la pubblicità, cioè l'abolizione del segreto industriale su questo tipo di meccanismi. Ovviamente è un'utopia, perché ormai sono meccanismi militari, oltre che informativi, altamente sofisticati, che ovviamente non hanno nessun interesse a rendere di pubblico dominio. Questo è un aspetto che sembra immateriale, astratto, ma in realtà è estremamente concreto, perché poi appunto l'uso dei dall'uso dei cellulari all'uso dei droni, all'uso di tutta una serie di forme comunicative hanno un'importanza che forse è superiore a quella di qualsiasi guerra del passato, insomma, non lo so. Vale la pena. No, hai detto una cosa che stavo praticamente pensando io, perché la vera umiliazione è quella che ormai abbiamo raggiunto un livello di disinformazione, di rassegnazione alla disinformazione, con questa guerra di fact checker che praticamente non si può dire più neanche le barzellette perché vieni censurato a tutti i livelli. C'è una censura esattamente sul sentimento popolare riguardo la guerra, dove sei contemporaneamente cooptato, perché le conseguenze le subisci tutte, ma non hai nessunissima voce in capitolo. Io ho ben presente che nel 2003 contro la guerra in Iraq sono andate in piazza 100 milioni di persone. 100 milioni di persone sono andate a fare delle manifestazioni in tutto il mondo. Ed è stata una sconfitta clamorosa, cioè l'inessenzialità dell'opinione pubblica in quel frangente è stata evidente, ma veramente da lì credo che abbiamo capito, o meglio qualcuno ha capito, che poteva fare tutto impunemente, quindi dal discorso della pandemia, cioè da un controllo centralizzato della verità ufficiale fino a qualunque altro atto. E addirittura siamo in guerra, che siamo in guerra, visto che forniamo armi, risorse, subiamo conseguenze economiche sullo scenario dell'Ucraina e della Russia, ma non abbiamo neanche le informazioni, cioè addirittura i telegiornali non sono nemmeno in grado di dare informazioni, nemmeno come prima notizia, cioè c'è il gossip. E quindi il discorso propaganda e guerra, che è sempre stato vero, adesso si può dire che anche il discorso del segreto, quello che fa Carlo, che appunto è prezioso, perché ogni tanto si sa dove sono fisicamente queste armi, da che parte arrivano, dove vanno e quanto vengono custoditi questi segreti industriali e militari. Cioè la gente e anche gli operai stessi ogni tanto fanno dei blocchi, i portuali, e sono gli unici operai, diciamo, lavoratori che si oppongono. È quasi una cosa più unica che rara, non c'è nessuno che si oppone. Sciopero di trasporto di armi, sciopero di costruzione di armi, cioè non se ne vedono. Cioè, quindi esiste, tra l'altro si sa, perché oltretutto fanno i sondaggi, l'opinione pubblica è contraria a inviare le armi, e però non succede un cacchio. Cioè la sconfitta vera, clamorosa, secondo me, negli ultimi 20 anni è proprio questa, dell'opinione pubblica che non ha più voce in capitolo e che subisce la propaganda come un diktat, cioè non c'è niente più da fare. Vieni accusato, ecco perché la vera questione sarebbe la diserzione, però la diserzione appunto è colpita, cioè anche a livello di dissidenza non si può fare quasi niente, non lo so. No, non sono molto di buon umore, sono riuscito. No, torno a quello che dicevo prima per il telefono di Roberto. Roberto prima diceva l'integrazione tra il tipo di ragionamento della rivista e un'integrazione di carattere storico-politico. E in quello che dicevo prima è esattamente quel limite, quella distruzione di posizionamento. Mi riferivo proprio all'assenza di quell'elemento storico-politico. Cioè, per riprendere quello che diceva la compagna prima, dopo la prima guerra del Golfo, noi facemmo altre ragioni. Nacque altre ragioni dopo la prima guerra del Golfo, aggregò, altra parola, altre ragioni, origine fortiniana, cioè, si costituì e aggregò anche una serie, cosa che oggi manca, non c'è, non ha suscitato questo, né in termini di massa, né in termini di pensiero critico, ma io lascio stare adesso un ragionamento di massa, passo nel pensiero critico, non c'è stato. Beh, questo è che dicevo la distruzione totale della capacità di pensare, del posizionamento del limite, che non c'è, è completamente annullato. Questo è l'elemento, mi pare, centrale del nostro, che è la frustrazione più grande, diciamo, che si vive in questa situazione. Momento, perché quello che hai detto tu vale per l'insieme, secondo me, del ceto intellettuale. Cioè, è venuto a mancare il ruolo dell'intellettuale critico. La distruzione da questo punto di vista è totale. Questo non significa che da nessuna parte si producano sforzi in questa direzione. Tra un arresto e l'altro, tra una misura preventiva e l'altra, ci sono compagni che vanno in questa direzione. Certo, sono esperienze estremamente minoritarie e non solo continuamente tartassate dalla repressione, però ci sono, certo, non ci sono più le riviste, non c'è più sostanzialmente quello spazio pubblico di discussione, ma questo non significa che non ci sia, secondo me, per quello che conosco, che vedo, per le cose che arrivano anche in Calusca. Poi come questo sforzo potrà oppure non riuscirà a integrarsi con altro è tutto da vedersi, però l'avere qui quei pochissimi intellettuali che ancora rispondono al loro ethos è positivo, la gran parte degli altri sono passati ad altri mestieri, perché lo stesso giornalismo è scomparso, però questo non significa che nessuno si applichi a cercare di mettere in movimento una macchina di pensiero critico. Anche quelli che andarono alla conferenza di Zimmerwald, la battuta era che stavano tutti in un vagone del treno, no? Non è che in passato la dinamica storica politica della lotta è chiaramente segnata da fortissime discontinuità, si è assistito all'eliminazione di un polo critico importante e poi si va avanti. Io volevo dire ancora due cose veloci. La prima, in riferimento a quanto ha detto Carlo, e cioè questo carattere duale della logistica, che è al tempo stesso indistinguibilmente logistica civile e logistica militare, questo carattere duale sempre più vale per l'insieme della ricerca scientifica. Dalla big science degli anni 40 in avanti e sempre più oggi in campo biomedico, in campo informatico, in tutti i campi della ricerca scientifica avanzata, se appena gratti la superficie, a volte senza neanche bisogno di grattare la superficie, trovi l'interesse statale, l'interesse militare, e i soldi vanno in quella direzione, l'uso è poi quello, la finalità è quella. Quindi questa è una cosa che secondo me merita sempre di essere messa in evidenza. Nel caso della logistica si materia proprio in un movimento fisico, ma il discorso secondo me vale un po' per tutto l'insieme del sapere della ricerca scientifica contemporanea. L'altra cosa invece, non per tirarla in lungo, ma ancora rispetto a quanto hai detto tu sulla rabbia, depressione e risentimento, sì, questo è vero, però ci sono, secondo me, da fare due considerazioni a riguardo, perché tu hai giustamente citato il Trattato di Versailles, e ecco, la chiusura della Prima Guerra Mondiale è tutta all'insegna da parte degli stati vincitori di quel senso di vendetta, umiliazione del nemico che è stato ricordato prima. Da parte della Germania il risentimento, la frustrazione, la perdita di punti di riferimento causati prima dalla crisi di svalutazione del marco, poi dalla crisi del 29, poi fu terreno di... Ma anche questo è un fatto politico, è per come riuscì ad affermarsi il nazismo in Germania che poi si arrivò alla guerra. E comunque le motivazioni psicologiche del soldato tedesco erano molto diverse da quelle del soldato americano, che invece non pativa di questa, e infatti non a caso gli americani la guerra l'hanno fatta fare agli altri come impiego di truppe, l'hanno fatta fare ai russi sostanzialmente. Gli americani hanno usato l'aviazione, il bombardamento strategico e il contingente che sbarca in Nord Africa. Certo, però col soldato al fronte gli americani non vincevano la guerra, neanche in Estremo Oriente. Per cui lo dico solo come sollecitazione, Anna, perché è verissimo, però non vale per tutti gli attori della Seconda Guerra Mondiale, mentre invece valeva per tutti gli attori della Prima. Questa capacità di creare nazionalismo armato è un fatto riguarda la Prima Guerra Mondiale e che si consuma nelle trincee. Nella Seconda Guerra Mondiale invece la configurazione è diversa, alla fine ne esce sostanzialmente sì, il fatto che la guerra la fanno gli stati se non si è in grado di fare altro, alla fine devi fare quella roba lì. Come uomo, come donna, devi cercare di difenderti dai bombardamenti o devi cercare... Un po', poi questa stessa capacità, essa stessa va a sua volta analizzata perché è piena di ideologia, la guerra giusta... Se invece poi vai a vedere, i soldati americani in Europa non vedevano l'ora di tornarsene a casa. Nell'ottava armata inglese si crearono delle strutture consigliari. Insomma, non era così, neanche nel caso della Seconda Guerra Mondiale, salda la presa degli stati sulle popolazioni, anche se l'effetto fu quello perché non c'era altro sostanzialmente, per quello che sono riuscito a capire della vicenda. L'altro fa il soldato se non può fare altro, ma tipo in Vietnam il problema era che tanti invece che fare il soldato scappavano o in Canada o in Olanda e poi a un certo punto smisero di fare... Certo. Ma questo non è visto che si parla di metafisica della... Questo qui è l'essenza del rapporto con lo Stato. La guerra è estremizza il rapporto con lo Stato. Però vi posso dire una cosa su questo? No, io sono fondamentalmente d'accordo, però diciamo... Prendiamo i polacchi che vivevano intorno al campo di sterminio di Auschwitz. È vero che come dire, non potevano fare altro in un certo senso, però potevano anche fare altro. Cioè, nel senso che è vero che era una questione dello Stato, cioè, anzi del partito nazista, cioè, però questo avviene nell'acquiescenza, nella mancanza di responsabilità etica e politica. Se noi abbiamo, per citare poi noi tolleriamo che i nostri governi abbiano finanziato i campi di contenzione in Libia, per esempio, dove avvengono cose non troppo dissimili dai campi di sterminio, e facciamo finta di niente, cioè non ci sentiamo responsabili di questo, mentre siamo responsabili, chi più chi meno, per l'indifferenza con cui questo avviene. Cioè, pensiamo ad altro, non cosa facevano i polacchi, tanto criticati polacchi intorno ai campi di sterminio? Sono esattamente questo. Ma perché? Perché sono, appunto, qui torniamo alla manipolazione dell'informazione, a tutto quello che dicevamo prima, cioè non è che siate di colpevolizzare qualcuno. Si tratta però di riconoscere il fatto che appunto questi meccanismi hanno raggiunto, cioè quello, ma il pensiero critico non c'è, ma c'è stata un'enorme operazione di egemonia della cultura di destra in Italia negli ultimi 20 anni. Non è che questo avviene soltanto perché noi siamo pochi e un po' scemi, avviene perché questi sono attivi, cioè non è che noi continuiamo a dire ma quelli sono fascisti, sono rozzi, sono ignoranti, e lo saranno pure, ma non è così semplice la cosa, cioè c'è una cultura di destra, questo dobbiamo cominciare a riconoscerlo. Questi si appropriano di parole d'ordine che una volta erano della sinistra e ne fanno un uso deformato. Lo diceva Gramsci con la rivoluzione passiva, ma è ancora vero. Quindi se continuiamo a sottovalutare, parlo anche per me, se continuiamo a sottovalutare le capacità di aggregazione e di riorientamento anche delle proteste da parte della destra, siamo sconfitti, perché sottovalutiamo enormemente, come è successo negli anni 20, sottovalutiamo, tu parlavi della Germania, ma perché il Partito Socialdemocratico e il Partito Comunista Tedesco, che ancora nel 31 o nel 32, non mi ricordo bene, hanno la maggioranza relativa del paese, crollano di colpo così, se non per questa incapacità e sottovalutazione? Cioè proprio la incapacità di comprendere che cosa avevamo di fronte, che è tragicamente la stessa cosa che sta, non con quella dimensione lì, ma insomma, quindi vabbè. Stato e guerra sono la stessa cosa, quindi c'entra destra, sinistra, cioè se tu sei socialdemocratico mi spieghi, visto che accetti lo Stato in tutti i cazzi di modi, come fai a dire che sei contro la guerra? Non sei contro la guerra, sei per lo Stato e quindi sei anche per la guerra, poi ti racconti che ci sono le guerre giuste, ma sei uno stronzo di merda e sei socialdemocratico e non mi venire a dire che sei giusto perché ti vinci di sinistra. Miniti di sinistra, tutta questa merda arriva da destra e a sinistra nello stesso momento, quindi attenti, perché non è neanche sinistra in realtà, cioè Minniti che fa i campi di contenzione in Libia, no? Ovviamente lo chiamiamo, vogliamo chiamarlo sinistra, ma insomma voglio dire, è allo stesso livello di Goebbels, cioè non... Volevo aggiungere qualcosa a partire dalle tre categorie che avevate tu riassunto, tu adesso non mi ricordo più, che cercavate di vedere se erano applicabili oppure sarebbero applicabili, fossero applicabili nella decifrazione dell'attitudine verso la guerra, quindi da parte delle popolazioni, da parte dei ceti dirigenti, eccetera, eccetera. Le stesse tre categorie di sottomissione, eccetera, eccetera, secondo me, se vengono applicate al consumo di immaginario, e sto parlando della televisione, hanno un riscontro immediato. Cioè, se io ogni tanto passo qualche ora a guardare, a scannare, come si chiama, si diceva una volta? A fare zappi. E c'è, allora, un canale in cui c'è un film in cui un detective va a cercare uno che hanno ammazzato. Poi giri canale, c'è un gruppo della CIA che sta cercando di bloccare dei disgraziati che stanno... Nell'immaginario queste categorie sono di uso comune, cioè l'annutrimento di queste, di queste tre categorie che tu enunciavi è quotidiano attraverso i media. Poi quando gli arriva la guerra sotto il culo come qua, cazzo, ma si sono dimenticati tutti che c'è, non so, hanno fatto il Corno d'Africa, hanno tirato giù il Corno d'Africa una quindicina d'anni fa, non vorrei esagerare, no? Anche prima, dopo. Ci sono le guerre africane completamente dimenticate, stati interi distrutti. E intanto noi ci trastulliamo con il detective che trova i cadaveri, la CIA. Questo è, secondo me, è la base poi della acquiescenza verso le operazioni effettive di guerra quando queste scoppiano. Non potresti fare un cazzo, poi sì, poi per tante cose, volendo. Ma hai visto in televisione come va a finire? Se non sei esperto, se non sei della CIA, se non sei un investigatore, non puoi fare un cazzo. E quindi stai a casa. Cioè. Scusate. Per me è importante questa doppia vita che noi abbiamo, no? Una completamente mediatica, staccata dall'altra, schizofrenicamente staccata dall'altro, e l'altra quella immediata quotidiana, dove ci crescono i prezzi delle cose, trovi una signora ucraina che è scappata, che ha dovuto prendere il figlio e portarlo in Italia, perché eccetera, eccetera, ma... parlava di società dello spettacolo, ma cioè e questo è il ritardo profondo della cultura di sinistra, virgolettata o no, cioè il fatto che non abbia compreso l'importanza dell'immaginario. Debord lo aveva capito, ma Debord ormai non lo legge più nessuno, non si inchina in pace, quindi è rimasto completamente assente questo aspetto, ed è l'aspetto che oggi non dico sia decisivo, ma contribuisce a rendere decisiva gli orientamenti di chi ha il potere. Ma insomma. Ma secondo me non è vero che la sinistra non ha capito l'importanza dell'immaginario, anzi, cioè semplicemente che lo usa a dei fini controrivoluzionari, dichiaratamente controrivoluzionari. Cosa intendiamo per sinistra? Perché io non definisco sinistra il PD, tanto per intenderci, cioè il PD per me è... Roma. Minniti per me è un assassino, tanto per essere chiaro. Quindi io mi rifiuto di considerare sinistra quella gente lì. Moiso l'altro giorno qui diceva non ci sono i crimini di guerra, ma la guerra è un crimine. E per capire questo bisogna guardare la televisione. Io poi forse sono eccessivo a dire questo, però è questo. Quindi quando parlo di sinistra, io parlo di quei pochi gruppi di cui parlavamo prima che cercano di resistere. Secondo me c'è un ritardo culturale, perché questi pochi gruppi che cercano di resistere, sia pure con tutto l'armamentario molto valido del marxismo, non hanno però ancora compreso pienamente che la manipolazione dell'immaginario è altrettanto potente della manipolazione economica. Cioè, si vendono ancora i mitra di plastica che sparano acqua, Non vorrei esagerare. Il potere dell'immaginario è altrettanto forte di quello contrario, secondo me è esattamente il contrario che diceva Debord. Cioè, Debord ha detto, attenti, perché invece di vivere la cazzo di vita vostra, vivete la vita degli altri, immaginata dagli altri. Vivete in un sogno, in una falsificazione totale che credete sia la vostra vita, quindi è un consumo di immaginario, è come una merce, quella, la principale merce, e si incrocia perfettamente con la merce della propaganda, che è il prodotto che veramente produce la guerra e recupera anche tutti i risultati, anche quelli militari. Cioè io quello che so è che anche dal punto di vista dei risultati militari è una guerra di propaganda, cioè uno tira la bomba, poi dopo dice no, però l'hanno messa gli altri, però in realtà gli italiani non combattono, però scopri ieri mattina che gli italiani in realtà intercettano altri aerei, cioè lì, allora raccontatecela qual giusta, ma non ce la raccontano giusta, perché la guerra è quella lì, cioè come ha detto lui, è l'importante è produrle le armi e venderle, farle apparire, poi in realtà vanno tutte in Africa svendute, perché quel bastardone di Zelensky se le rivende, ovviamente, perché lui è la vittima, però sono le vittime che fanno i danni peggiori, ahimè. Carlo diceva che l'Ucraina produce armi. Scuso, effettivamente. No, no, ma. Però il fatto di produrre non è così. Scusate, vuol dire, volevo. Perdona, scusate. L'intervento. Scusa, Vittorio. Ma in realtà, boh, non è che avessi molto da dire, è che. Cioè, quello che dite è verissimo sulla questione della guerra di propaganda, che ormai, cioè, ma come diceva Clausewitz, no? Diceva la guerra è il continuo della politica con altri mezzi, che è esattamente questa cosa qua. Adesso sto leggendo un libro che è abbastanza interessante, anche se non ci sto capendo moltissimo, sulla nozione di guerra ibrida. E non so se appunto nella rivista, però sarebbe anche interessante, secondo me, analizzare come il capitale, come il nemico, sviluppa non solo a livello appunto logistico materiale la guerra, ma anche il concetto di guerra, cioè come è cambiato il concetto di guerra nel corso di questi ultimi anni. E boh, da quello che leggo da sto libro sembra che sia cambiato parecchio, c'è tutto un dibattito su questa cosa che non so, che sarebbe interessantissimo prendere per vedere anche il punto di vista dell'avversario, cioè di come effettivamente si sviluppa. E quello che dicono questi qua è che effettivamente ormai la guerra ha assunto questa dimensione totalizzante, per cui goebbelsianamente appunto ormai la guerra si combatte sui social media tanto quanto come sui campi di battaglia, cioè è la stessa roba. E chiaramente non è la stessa cosa in termini materiali, ma da un punto di vista della dimensione del capitale, sì. Vabbè, tutto qua. C'è un altro libro, un altro scritto di Simone Weil che ho letto di recente, perché è stato ripubblicato di recente, intitolato Roma. Non so quanti di voi ce l'abbiano presente, uno scritto originato dal fatto che Simone Weil voleva criticare, era stata chiamata a criticare l'uso di simboliche di tipo romano da parte dei nazisti. E anziché indicare come una sorta di abuso, che appunto con manipolazioni dell'immaginario si faceva della simbolica romanistica, Simone Weil argomenta che i nazisti hanno scelto bene i loro simboli, perché se già da tempo, diciamo da circa un quarantennio, molti teorici hanno ritenuto di dover rovesciare la formula di Clausewitz appena stata citata da Toto, cioè la politica che è la continuazione della guerra con altri mezzi, non c'è esperienza militare e statuale in cui questo sia più accaduto che nella storia di Roma. Quella del diritto romano, come viene imposta alle popolazioni che vengono assoggettate, è un diritto del sopruso. I romani non hanno mai rispettato un patto, queste sono parole di Simone Weil. Tutto quello che si dice su il diritto romano come culla della civiltà e via dicendo deve essere letta in questa controluce, che non è semplicemente la guerra che assoggetta, ma è il sistema dei trattati che umilia, che sottopone al dileggio, ed è talmente piena di esempi tratti dalla storia romana e dalla storia della costruzione delle sue istituzioni, che è uno scritto formidabile. Io penso che gli scritti brevi di Simone Weil siano più forti di quelli più ampi, tipo La prima radice o altri, La condizione operaia, via dicendo, di più ampio respiro, che questi scritti riescano a focalizzare in questo caso un aspetto fondamentale, cioè esiste un'istituzione della guerra, delle forme istituzionali della guerra che hanno una continuità sovrastorica, cioè non gliene frega un cazzo dei modi di produzione, del feudale, cioè non gliene, è qualcosa che attiene proprio alla forma del diritto e alla forma della proprietà privata, come viene conformandosi all'interno proprio del diritto romano, e quindi di che cosa? Della radice di tutti i diritti contemporanei. richiamo l'attenzione sul fatto che il primo scritto di Karl Marx è uno scritto contro la scuola storica del diritto, cioè contro il tentativo all'interno delle università e all'interno della cultura tedesca di far passare, e di cosa che poi hanno ottenuto, no? Di far passare tutta la lettura dei diritti consuetudinari in termini romanistici, in termini latini. Quindi la trasformazione di tutti i rapporti consuetudinari delle campagne in rapporti di proprietà o comunque gestiti dalla proprietà. Questo è il passaggio un passaggio fondamentale della costruzione dello Stato contemporaneo. Ora questa continuità delle istituzioni della guerra nell'amministrare attentamente il sopruso ed esercitarlo sulle popolazioni eternamente inermi, cito ancora Simone Weil, secondo me è un aspetto che voleva su cui richiamava l'attenzione Roberto, cioè il fatto che le popolazioni sono l'oggetto della guerra e contemporaneamente al fatto che in televisione si dice ci sono anche vittime civili, come che uno dice ma siete veramente dei coglioni, eccetera. Un'ultima notazione, c'è uno scritto di Sopsky, un tal Wolfgang Sopsky, che si chiama Saggio sulla violenza, è un libro che toglie il sonno perché è veramente è terribile. Sopsky è un neo-bessiano teorico del nuovo ordine mondiale all'alba degli anni 90. Ciò che mette in luce è che non è vero, o comunque non è completamente vero, che per esempio la guerra contemporanea, poiché mette il nemico a una distanza sempre maggiore, no? Quindi prima era il fucile, poi il cannone a lunga gittata, adesso tutto avviene con i droni dall'altro capo del mondo, con un videocomputer dall'altra parte. È vero, ma nello stesso tempo ci sono esperienze contemporaneissime in cui è proprio nella prossimità, nell'estrema prossimità dei corpi che la passione di annichilimento, la pulsione di morte si esprime. Quindi a che serve crivellare un corpo di colpi, cioè fino a ridurlo a una poltiglia? Eppure accade, no? Basterebbe un colpo solo, giusto? Eppure nella guerra vengono fomentate tutte le risorse dell'inumano, proprio perché ogni individuo è stato assoggettato alla macchina capitalistica in una determinata posizione, e adesso è quella del mercenario, quella del soldato di leva, eccetera, che deve districarsi da una situazione nella quale non ci sono alternative, perché esistono delle istituzioni militari che sono le istituzioni più antiche che esistano, sia negli atti di parola che nella loro organizzazione, che nel modo in cui vengono concepite le forme a cui tutti siamo assoggettati. Quindi sì, certo, siamo come i polacchi che stavano lì alla periferia di Auschwitz nel pensare alla situazione biblica. La si è detta fin dall'inizio, cioè che i trattati bilaterali erano l'istituzione dei lager. Il fatto che non sia servito a niente se non a focalizzare un problema non vuol dire che noi ne siamo responsabili, perché non è che noi siamo responsabili di quello che fa il nostro Stato, e sicuramente anche se lo fa in nostro nome, non a nome mio. Quindi secondo me questo elemento di autocritica, così, della propria impotenza rispetto a ciò che accade, è un elemento che non dovrebbe farci pensare a questo presente come un novum. È sempre così, è sempre stato così. Noi oggi studiamo appunto rileggiamo storie molto minute di lotte che hanno avuto un'importanza solo simbolica, non saprei dire, però cioè, il simbolico non è niente solo perché è simbolico. La presa di parola non è niente solo perché è presa di parola, e non è che in altre epoche le prese di parola abbiano determinato necessariamente dei fatti. C'è stata un'occasione, è andata perduta, cioè non diciamo, non lasciamoci rubare le parole di bocca più di quello che è necessario, insomma, ecco. Dicevo che siamo costretti a chiudere per ragioni di trasporto, logistiche, si fa anche pagare questa della ferrovia. Vabbè, non voglio appesantire, c'è il trasporto emotivo che ti porta anche a viaggiare nel mondo, insomma. E forse varrebbe la pena di pensare, senza sovraccaricare il lavoro a nessuno, noi stessi in primo luogo, a un momento nel quale quelle due dimensioni che del discorso di Carlo venivano evocate possono trovare un momento di riflessione, di discussione. Poi sappiamo benissimo che non possiamo fare tutto. Però forse varrebbe la pena, vista l'insistenza con la quale certi argomenti sono stati sollevati e tante le prospettive e gli sguardi, fino all'ultimo, insomma, con questo approfondimento. Ecco, la proposta potrebbe essere questa. In un'epoca di naturalizzazione dell'esistente, riuscire a rompere questa identità settaria che è disastrosa, insomma, ecco. Ma che da parte mia un saluto, vi ringrazio a tutti, è stato molto, molto, molto interessante per noi e spero anche per voi.